Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho ascoltato molti colleghi anche parlare di porta a porta, come possibilità di ricondurre porta a porta sotto la testata giornalistica del TG1 per poi affrontare magari anche una futura par condicio con gli attori principali della politica italiana intervistati da Bruno Vespa. Io già le dico da adesso che la cosa che proporrò in commissione quando faremo la delibera è che chi ha avuto una deroga al tetto perché ha avuto il contratto artistico non possa essere ricondotto sotto testata. Questo è uno degli argomenti della politica italiana di oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Questo era Fico, Roberto Fico, presidente della Vigilanza Rai, nonché esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, il quale ha detto che in vista della campagna elettorale, quindi delle elezioni che ci dovrebbero essere a primavera, Vespa non può partecipare a, diciamo, non può avere ospiti politici perché non avendo il tetto allo stipendio, sapete che c'era stata questa polemica riguardo la Rai nelle settimane, nei mesi scorsi, lui ha un contratto artistico, questo è stato detto, e quindi non può avere un limite economico al suo compenso. Allora Fico dice: vabbè, allora, visto che non ha lo stesso tetto che hanno gli altri giornalisti, non può partecipare con gli ospiti a questa campagna elettorale. Allora Vespa gli ha detto: vabbè, ma siccome io da sempre ho questo tipo di contratto, da molti anni, cioè, dice, non dal 2001 sarebbero da annullare tutte le elezioni che ci sono state. Insomma, diciamo che è stato un botta e risposta un po' al vetriolo, uno degli argomenti della politica di cui parleremo questa sera con l'ospite. E poi, fra gli altri argomenti, ci occuperemo del nuovo Nobel. Abbiamo parlato di quello di medicina, della fisica, stasera di quello della chimica, con un ricercatore che è direttore di un laboratorio che è l'unico che ha questo super microscopio in Italia. E poi ci occuperemo anche di spinaci allucinogeni, non so se avete sentito questa notizia, ma la approfondiremo. Fra poco invece ci collegheremo col Brasile per una notizia che è arrivata poco fa, l'arresto di Cesare Battisti, ex terrorista. Per i vostri commenti, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto grazie per tutti gli auguri per il compleanno della radio, 18 anni, anch'io ero qui proprio dal primo istante, quando ancora non era stato scelto il nome della radio, figuratevi. E poi il numero per messaggio e WhatsApp, che è 349-238-6666. Quindi, prima di affrontare gli argomenti, partiamo col racconto della giornata. La politica italiana passa il DEF e a Gentiloni vanno anche i voti dei verdiniani, no di MDP, anche se Padoan apre sul super ticket. Lite tra Pisapia e D'Alema, e Di Maio illustra il programma dei 5 Stelle a Mattarella, botta e risposta tra Fico e Vespa. Catalogna, gli indipendentisti annunciano lunedì la proclamazione dell'indipendenza, Madrid valuta la reazione e in questi minuti parla in conferenza stampa il governatore della Catalogna. Brasile, ha arrestato l'ex terrorista Battisti mentre cercava di fuggire in Bolivia. Sicurezza alimentare, lotto di spinaci ritirati dal mercato per rischio mandragora, una famiglia intossicata a Milano. Amazon, schiaffo della Commissione Europea, deve restituire 250 milioni a Lussemburgo. Nobel per la fisica 2017 va ai tre padri del super microscopio che ha rivoluzionato la biochimica. E partiamo quindi dalla notizia arrivata poco fa. Vorrei prima farvi sentire però Puigdemont, che sta parlando in questo momento, il governatore della Catalogna. Ieri lei ha deluso tante persone. Sta parlando delle dichiarazioni del re Felipe di ieri. In diversi momenti che spesso sono state al suo fianco. Come presidente della Generalitat penso che dovremmo... Dice che il re, insomma, non ha citato le violenze, come si diceva ieri, che ha detto che è una grave slealtà della Catalogna questo referendum, che bisogna assolutamente rispettare la Costituzione. Però Puigdemont, che sta parlando adesso e poi ritorneremo sul suo discorso, ha detto che è stato un discorso molto deludente. Però vi dicevo, una notizia che è arrivata poco fa, e quindi ci colleghiamo subito con Emiliano Guanella in Brasile. Ciao Emiliano, bentrovato. Grazie mille, grazie a te. La notizia è che l'ex terrorista Cesare Battisti, per il quale l'Italia chiede da molto tempo l'estradizione, no, al Brasile, perché è stato condannato per diversi omicidi, è stato arrestato mentre cercava di fuggire in Bolivia. Emiliano? Esattamente, è stato fermato dalla polizia stradale brasiliana nel posto di frontiera di Corumbá, Puerto Suárez. Corumbá è la località brasiliana nello stato di Mato Grosso del Sud, subito dopo c'è appunto la resa boliviana di Puerto Suarez. Il fermo, ecco, secondo le notizie che stanno arrivando, la notizia appunto è di oggi pomeriggio, ricordiamo qui sono 5 ore in meno rispetto all'Italia, è stato fermato come in primo luogo perché possedeva una somma di denaro molto superiore al limite permesso dalla legge brasiliana, che sono più o meno 10.000 reais, che sono circa 3.000 euro. Questo fa pensare appunto che Cesare Battisti stesse pensando di andarsene in Bolivia per rimanere un bel po' di tempo, perché tutto lascia indicare che stava appunto cercando di lasciare il Brasile. Ma questo, Emiliano, perché il Brasile era forse intenzionato dopo anni a concedere l'estradizione? Non mi pare, no? Esatto, la Farnesina ha confermato qualche giorno fa che ha avanzato una richiesta formale al governo brasiliano, al governo dell'attuale presidente brasiliano Michel Temer, per rivedere quella decisione, cioè la concessione dell'asilo politico a Cesare Battisti, che fu presa, lo ricordiamo, il 31 dicembre del 2010, l'ultimo giorno dell'anno, ma anche l'ultimo giorno del mandato dell'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ricordiamo, fu un grande caso, affare internazionale, e che portò anche una crisi molto forte diplomatica fra Italia e Brasile. Il governo allora del Partito dei Lavoratori di Lula da Silva aveva ritenuto che Cesare Battisti era un perseguitato e quindi meritasse l'asilo politico. La Corte Suprema brasiliana poi aveva confermato questa decisione, ma dall'Italia non ci si è mai stancati di chiedere l'estradizione di Cesare Battisti. Tant'è che i suoi difensori hanno chiesto proprio nei giorni scorsi una richiesta di habeas corpus, cioè sostanzialmente una richiesta di protezione da parte dell'autorità, che in questo momento questa richiesta è sotto osservazione del ministro della Corte Suprema brasiliana, Luiz Fux. Quindi, per riassumere, in qualche modo sia i difensori che lo stesso Cesare Battisti stanno sentendo che il clima intorno a lui è cambiato, perché nel frattempo, in questi anni, il governo brasiliano è cambiato, non c'è più al potere il Partito dei Lavoratori, ma da un anno a questa parte c'è un governo di centrodestra col presidente Michel Temer, quindi cambiando l'orientamento politico del governo potrebbe venire meno quella protezione che è stata data, è stata assicurata finora. Brasile. Grazie, quindi che vedremo i prossimi sviluppi nelle prossime ore dopo questo fermo. Grazie intanto Emiliano Guanella dal Brasile. Ciao Emiliano. Poi ci aggiorneremo con Emiliano, appunto, dovessero esserci altri passi. Intanto invece andiamo sulla politica italiana con Gentiloni, che passa la prova del DEF in Parlamento. Al Senato 181 sì ai saldi e 164 alla risoluzione della maggioranza, un voto all'insegna di responsabilità e stabilità, ha commentato Gentiloni. Al primo Via Libera ha contribuito anche MDP, che invece non ha votato il documento del governo sul DEF, malgrado l'apertura del super ticket del ministro Padoan. In entrambe le votazioni 12 senatori di ALA hanno votato con la maggioranza. Nonostante le polemiche e le prese di distanza di MDP, il governo passa indenne la prova più difficile, quella del Senato, e ottiene il disco verde alla nota di aggiornamento al DEF e allo scostamento dal pareggio di bilancio, quest'ultimo anche con i voti di MDP. Il ministro Padoan in mattinata aveva teso una mano ai democratici e progressisti, assicurando interventi su uno dei temi a loro più cari, la sanità. Questo è sicuramente un ambito nel quale andranno valutate misure di miglioramento e di efficientamento. Padoan aveva poi rivendicato le scelte di politica economica ottimista sulla crescita, che aveva detto si rafforza mentre i rischi finanziari si allontanano. Dal punto di vista della crescita, dal punto di vista dell'occupazione, i numeri sono chiari. Un ottimismo che però, dice, non deve essere ragione per fermarsi, al contrario, per accelerare lo sviluppo, renderlo strutturale. Di qui le misure della manovra, che vale 20 miliardi, 3,5 arrivano dalla spending review, oltre 5 saranno di nuove entrate. Il risultato garantisce il tesoro della lotta all'evasione fiscale e forse anche di una web tax europea, e poi 600 milioni per la lotta alla povertà, incentivi all'assunzione dei giovani sino a 2 miliardi nel 2019. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è stato il via libera anche alla Camera, ne parleremo, con MDP che ha appoggiato solo lo scostamento di bilancio, ma assicura Roberto Speranza, che è coordinatore appunto del Movimento Democratico e Progressista, non faremo cadere il governo. Ancora la politica italiana, sinistra, Pisapia si smarca Dinamarca, da D'Alema, dice lui divide, io voglio unire, dovrebbe fare un passo di fianco, queste fibrillazioni, fermenti, come vogliamo chiamarli, nel centrosinistra. Intanto oggi Luigi Di Maio, candidato premier dei 5 Stelle, ha incontrato il presidente Mattarella per illustrargli il programma del movimento e dice: io ho espresso anche la nostra preoccupazione per la legge elettorale che sta per arrivare in aula alla Camera. A proposito di elezioni e prossime campagne elettorali, oggi il presidente della Commissione di Vigilanza Rai, lo avete sentito all'inizio, dei 5 Stelle, Roberto Fico, ha chiesto che Porta a Porta sia esclusa dalla testata giornalistica. Poi ci torneremo tra poco nel corso di Effetto Notte. La Catalogna, avete sentito prima una parte minima del discorso del governatore della Catalogna Puigdemont, che dice le autorità catalane attueranno i risultati del referendum. Ha parlato della delusione suscitata dal discorso ieri di Re Felipe. Intanto gli indipendentisti annunciano appunto che lunedì ci sarà la proclamazione unilaterale dell'indipendenza. Il governo spagnolo sta valutando quali reazioni approntare. Intanto il primo ministro Rajoy ha detto questa sera di aver respinto la proposta di promuovere un tavolo di mediazione sulla crisi catalana avanzata dal segretario di Podemos, Pablo Iglesias. Tra poco ci torneremo. Invece abbiamo parlato del Brasile e dell'ex terrorista Cesare Battisti, che è stato arrestato. Seguiremo i prossimi sviluppi. Andiamo invece su notizie italiane di nuovo, con una vicenda che riguarda la sicurezza alimentare. Sospetta mandragola negli spinaci surgelati e questo ha portato un'intera famiglia a essere intossicata e andare al pronto soccorso a Milano. Allucinazioni, confusione mentale e amnesia. Con questi sintomi, nella notte tra sabato e domenica, un'intera famiglia, padre di 60 anni, madre di 55, figli di 16 e 18 anni, si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Fatebene Fratelli di Milano. Subito i medici hanno sospettato un'intossicazione alimentare e hanno scoperto che tra i vari cibi consumati dalla famigliola c'erano spinaci surgelati di una nota marca acquistati al supermercato. Dalle verifiche successive sulla confezione di spinaci e sull'intera partita di vegetali, sembra che tra le foglie di spinaci ne fossero finite per errore anche alcune di mandragola, pianta molto diffusa nel Mediterraneo, cui nell'antichità venivano attribuiti poteri magici e che veniva utilizzata a scopo analgesico, anestetico e afrodisiaco. In realtà la mandragola è un'erba velenosa che può dare anche allucinazioni, cresce vicino agli spinaci e può essere raccolta insieme per sbaglio. La famiglia è già stata dimessa, anche il padre, quello coi sintomi più importanti, ma l'azienda produttrice fa sapere non è provata la presenza di mandragola negli spinaci, anche se conferma il richiamo precauzionale di alcuni lotti dei vegetali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E fra l'altro, a proposito di sicurezza alimentare, la catena di supermercati Esselunga ha diffuso l'avviso di richiamo di un lotto di taleggio DOP, piacere naturale del marchio Carozzi Formaggi, per la presenza del batterio della listeria. Esselunga raccomanda ai consumatori che hanno acquistato al banco gastronomia o nel self-service della catena tra il 7 e il 28 settembre il taleggio DOP Carozzi prodotto nello stabilimento di Barzio, dice di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita. Parliamo anche di spose bambine, un fenomeno purtroppo molto diffuso nei paesi del terzo mondo e non solo. Empowerment delle donne, cioè accrescere il loro potere, e promozione della salute sessuale e riproduttiva sono queste le due principali misure indicate oggi dal Parlamento dell'Unione Europea per contrastare il fenomeno delle spose bambine. Nella risoluzione approvata oggi per alzata di mano dall'Eurocamera, i deputati hanno anche condannato la reintroduzione da parte dell'amministrazione Trump della Global Gag Rule, cioè la regola che concede gli aiuti umanitari solo alle organizzazioni che non promuovono l'aborto, e questo può avere un impatto negativo sulla salute di donne e bambine nei paesi in via di sviluppo. Per potenziare l'accrescimento del potere delle donne, l'Unione Europea e agli Stati membri hanno indicato che servono l'accesso all'istruzione, sostegno, sviluppo economico e partecipazione alla presa di decisioni. E poi la notizia che riguarda Amazon, è stato deciso, era già stato annunciato ieri dall'Unione Europea che avrebbe fatto pagare ad Amazon centinaia di milioni di in tasse, una questione fiscale, quindi adesso la condanna. La Commissione Europea ha presentato il conto ad Amazon, al colosso, di 250 milioni che deve a Lussemburgo. E adesso questa storia da Napoli di un'adozione speciale. Un atto di amore grande, questa è l'adozione. È per questo che fa riflettere la storia della neonata Down, abbandonata a Napoli in ospedale dalla madre, che si è vista poi rifiutata da 7 coppie di aspiranti genitori, famiglie in lista d'attesa, nessuna disponibile ad accogliere la piccola affetta da disabilità. È qui però che la storia per fortuna si tinge di rosa e ci racconta del coraggio di un single che aveva richiesto proprio di potersi occupare di un bambino disabile senza alcuna condizione. In Italia l'adozione ai single è consentita solo in rari casi, nelle maglie della legge 184 del 1983 che regola le adozioni speciali. Per la piccola di Napoli una strada percorribile, l'unica. Ora, per la bimba e il neopapà, inizierà il preaffidamento di 10 mesi, al termine del quale si valuterà l'inserimento definitivo nella nuova famiglia. Di una cosa siamo certi, del gran cuore di quel papà, disposto a farle anche da mamma. Anna Rita Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo di scienza adesso. Anche il cervello umano è dotato di una rete fognaria, pensate, che drena i rifiuti, è formata da vasi linfatici che corrono paralleli a quelli sanguigni all'interno della più coriacea ed esterna delle meningi che rivestono l'organo, la cosiddetta dura madre. Oltre ad allontanare la spazzatura prodotta dalle cellule, questa rete linfatica costituisce il punto di contatto diretto tra cervello e sistema immunitario, dunque potrebbe giocare un ruolo centrale in diverse malattie neurologiche come la sclerosi multipla, secondo quanto indica uno studio pubblicato su eLife dai ricercatori del National Institute of Health americani. Poi, per chiudere, il Nobel, di cui parleremo fra gli altri argomenti, che va al Nobel per la fisica 2017 ai tre padri del super microscopio che ha rivoluzionato la biochimica. Intanto vedo tantissimi vostri auguri, adesso leggerli tutti è un po' complicato, man mano cercherò di leggere i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Intanto aggiorniamo chi sta viaggiando e poi torniamo per cominciare ad affrontare gli argomenti. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. In 60 minuti tutti pieni pieni di fatti, di notizie che vi racconto tutte le sere puntualmente dalle 21 alle 22. Adesso avete sentito il riassunto sempre con Roberta Giordano qui su Radio 24. Adesso fra poco ve li ricordo i fatti principali, ma cominciamo invece a scendere nel cuore dei vari argomenti di questa sera. I vostri messaggi, tantissimi di auguri, adesso non vi cito tutti, diventa veramente complicato e continuo naturalmente a ringraziarvi per i 18 anni della nostra radio. C'è questo ascoltatore invece che va subito sulla vicenda della Spagna, dice: vicenda spagnola si può esemplificare con una metafora, un figlio che vuole vivere autonomamente, un padre che in nome di una benevola autorità paterna vuole trattenerlo con la forza, un'antica, sempre attuale contraddizione, le democrazie conquistate col sangue rischiano oggi di essere inapplicate per un semplice atto d'arbitrio. È una bella metafora, ma non è così semplice in effetti, mi permetta l'ascoltatore o l'ascoltatrice che non si firma. E poi invece sì, ancora altri auguri, Cristian, Francesca, Marco, Fidenza da Parma, eccetera eccetera. Adesso dobbiamo invece occuparci di Catalogna tra pochissimo e quindi vi ricordo che i fatti principali sono questi, appunto la politica italiana con il DEF che passa e a Gentiloni vanno anche i voti dei verdiniani, non di MDP che l'aveva già annunciato ieri, ma Padoan apre sul super ticket. E poi lite tra Pisapia e D'Alema, Di Maio illustra il programma dei 5 Stelle a Mattarella, botta e risposta tra Fico della vigilanza RAI e Vespa. Per la Catalogna ci collegheremo tra pochissimo con Mario Magarò. Brasile, avete sentito, è stato arrestato l'ex terrorista Battisti mentre cercava di fuggire in Bolivia. Vediamo se è la volta buona per ottenere l'estradizione in Italia. Sicurezza alimentare, con questo lotto di spinaci ritirati dal mercato per rischio mandragora, una famiglia intossicata a Milano, un ascoltatore chiede: si può dire la marca? In realtà è stata resa pubblica, è Bonduella, anche se l'azienda smentisce che sia certo che sia stata contaminata con mandragora. Tra poco ne parleremo con un esperto di sicurezza alimentare. Poi il Nobel per la fisica 2017 che va ai tre padri del super microscopio che ha rivoluzionato la biochimica. Avete sentito poco fa, ve l'ho fatto sentire in diretta, è durato pochi minuti, almeno da quando abbiamo iniziato con Effetto Notte, il discorso in conferenza stampa del governatore della Catalogna, Puigdemont, che ha detto che è stato molto deludente il discorso di ieri del re Felipe, re di Spagna, che era stato anche molto breve, vi ricordate, e aveva detto in sostanza: noi siamo con la Costituzione, la Spagna deve rimanere unita, è stato un grave atto di slealtà quello della Catalogna, e non ha parlato delle violenze di domenica delle forze dell'ordine spagnole contro la popolazione della Catalogna. Quindi siamo ancora su questa regione dopo il referendum. Gli indipendentisti dicono che lunedì verrà proclamata la Repubblica Catalana in modo unilaterale, e Madrid si prepara alla reazione. Mario Magarò, ciao Mario, in diretta da ciao Barcellona. Roberta, buonasera. Allora, ci sintetizzi il discorso, io ho dato così pochi stralci, no, del discorso del governatore catalano. Mi dici tra l'altro come si, visto che tu sai bene il catalano, come si pronuncia il suo cognome? Si pronuncia Puigdemont. Puigdemont, è scritto Puigdemont, ma Puigdemont, vediamo se me lo ricordo, va bene. Che cosa ha detto Puigdemont, quindi, Mario? Allora, Puigdemont ha detto molte cose in poco tempo. Il suo discorso è durato esattamente 9 minuti, infatti, ha cronometrato l'Avanguardia, che è il principale quotidiano di Barcellona. Puigdemont ha iniziato in maniera soft, ha ringraziato tutti i cittadini catalani e anche i cittadini spagnoli che si sono espressi in favore della democrazia in difesa degli ideali catalani, perché è da ricordare che anche in altre città spagnole, in primis nella capitale Madrid, si sono registrate manifestazioni a sostegno della Catalogna. E dopo quindi queste parole concilianti, Puigdemont ha caricato duro contro Mariano Rajoy, il premier spagnolo, ma soprattutto contro Felipe VI, il re di Spagna, dicendo chiaramente di non condividere il messaggio del capo di Stato, che ha fatto proprie le politiche di Mariano Rajoy, ignorando deliberatamente i catalani che non la pensano come Felipe e che evidentemente sono stati vittime di violenza poliziale. Puigdemont ha poi detto chiaramente che il proprio governo, il governo da lui presieduto, non si muoverà di un millimetro dal compromesso preso con i catalani, facendo implicitamente riferimento ai propri passi, ovvero quelli relativi alle conseguenze dei risultati del referendum. Stesso tu, Roberta, prima accennavi al fatto che lunedì, con tutta probabilità, sarà messa a votazione la dichiarazione di indipendenza della Catalogna. Oggi il blocco indipendentista che detiene la maggioranza nel Parlamento catalano, rappresentato dalla coalizione di Junts pel Sì, di cui fa parte Puigdemont, e il partito La CUP, la candidatura d'unità popular, che in sostanza rappresenta l'ala radicale dell'indipendentismo catalano, hanno convocato, dicevo, una sessione plenaria straordinaria per lunedì alle 10 del mattino. Non è stato svelato se sarà messo a votazione, se sarà messa a votazione la dichiarazione di indipendenza della Catalogna, ma tutto fa pensare che sarà così. D'altronde quelli della CUP, che ripeto sono gli indipendentisti radicali, hanno fatto trapelare chiaramente che questa è la loro intenzione. Mario, tra l'altro, per chiudere, c'era anche questa vicenda un po' travagliata del difensore del Barcellona Piqué, no? Che è catalano e si era detto nei giorni scorsi favorevole al referendum, poi era presente anche ai seggi, adesso però gioca nel Barcellona e dice: ma io voglio giocare per la nazionale. Mi sembra che ha rischiato anche la rissa, l'ostilità molto forte da parte di altri giocatori, anche forse della federazione spagnola, no? Sì, ieri Piqué è un indipendentista dichiarato più volte, soprattutto attraverso i social network. Piqué è molto molto attivo attraverso i social network, non ha mai fatto mistero delle proprie posizioni indipendentiste. C'è da dire che ieri, quando Piqué ha raggiunto il resto della nazionale spagnola in ritiro per le ultime due gare di preparazione al mondiale, Piqué è stato ricevuto da insulti, fischi ed inviti a tornare a Barcellona da parte dei tifosi spagnoli che assistevano all'allenamento della Roja, come viene definita e denominata la nazionale spagnola. Oggi Piqué è intervenuto, però parlando a proposito del suo indipendentismo, usando parole concilianti, dicendo che la sua posizione indipendentista non è, si può conciliare con la sua presenza all'interno della nazionale spagnola. L'allenatore della Spagna, Lopetegui, è stato assolutamente conciliante nei confronti di Piquet. C'è però da sottolineare che Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid, il capitano della nazionale spagnola ed acerrimo nemico di Piquet, più volte si sono beccati sia in campo che sui social network, proprio oggi sul proprio profilo Twitter ha postato una foto che evidenzia la Spagna, la bandiera spagnola e la corona spagnola. Quindi implicitamente, molto probabilmente, l'ennesimo messaggio di sfida a Piquet. Grazie Mario Magarò, e adesso sarà quindi da Barcellona, sarà interessante capire cosa succederà nelle prossime ore, se effettivamente lunedì ci sarà questa proclamazione di indipendenza. Insomma, una tensione sempre molto molto alta, con l'Unione Europea che nuovamente si schiera dalla parte di Madrid e però invita al dialogo. Vabbè, dice non ho il potere l'Unione Europea di entrare in una questione interna spagnola, e quindi semplicemente dice difendiamo la Costituzione di Madrid e l'unità della Spagna, ma invitiamo al dialogo. Insomma, diciamo parole abbastanza di circostanza. Grazie Mario Magarò, adesso ci prendiamo questa piccola pausa e poi ritorniamo, perché ci sono tanti altri temi, pagina Facebook di Effetto Note oppure il 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Vedo un messaggio di un ascoltatore, vediamo se riesco a leggerlo, che dice, gentile signora Giordano, mi chiama Giordano perché mi viene l'uveite, dice lei che ha così apertamente seguace grillina, è una sua scelta che io non condivido. Insomma, diciamo, anche per questa sera abbiamo subito raggiunto in pochi istanti la par condicio, che chi accusa di essere anziana, chi accusa di essere grillina, chi di qua, chi di là, quindi evidentemente diciamo si riesce a stare abbastanza nel mezzo, che ognuno abbia le proprie idee, si cerca di essere equilibrati. Adesso parleremo proprio di politica italiana, intanto vi ricordo velocemente anche tra poco quali sono le notizie principali, i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Note oppure al 349-238-6666. Lino scrive: la penisola iberica, laboratorio di fine diplomazia, insomma la situazione è veramente molto molto complicata. Poi dice invece questo ascoltatore, sempre a proposito di Catalogna, scusa Roberta, ma se si parla di democrazia non doveva votare anche la Spagna al referendum per l'indipendenza della Catalogna? Se no mi pare sia autodeterminazione, non democrazia. Mauro, effettivamente diciamo, se dobbiamo basarci sulla Costituzione spagnola, chiaramente una regione non può autodeterminarsi, autoproclamarsi indipendente. È un braccio di ferro che dura da tanti anni, ha una sua grossa autonomia già la Catalogna, probabilmente la Spagna doveva scendere forse a ulteriori compromessi, a dare altri pezzi di autonomia alla Catalogna. Insomma, comunque su questo penso che ci aggiorneremo se ci sono novità nei prossimi giorni, soprattutto lunedì. Adesso vi dicevo, le notizie principali sono appunto la Catalogna e il discorso di Puigdemont, che è il governatore della Catalogna, che ha detto il nostro sogno prosegue, lunedì proclameremo l'indipendenza, ha parlato della delusione delle parole di ieri di Re Felipe. La politica italiana ne parleremo tra pochissimo. Brasile, ci siamo collegati col Brasile perché è stato arrestato l'ex terrorista Battisti mentre cercava di fuggire in Bolivia. Sicurezza alimentare, ne parleremo più tardi, questo lotto di spinaci ritirato dal mercato per rischio mandragora, una famiglia intossicata a Milano, e poi anche ci occuperemo del Nobel per la chimica, scusate, 2017, va ai tre padri del super microscopio che ha rivoluzionato la biochimica. Ora non so chi rivoluzionerà la politica italiana, cara Barbara Fiammeri. Sì, buonasera. Ciao Barbara. Allora, diciamo, le notizie in primo piano oggi della nostra politica, che offre sempre spunti degni ogni giorno, sono la manovra economica, c'è stato il via libera del Senato e anche della Camera allo scostamento del pareggio di bilancio e alla risoluzione di maggioranza sull'aggiornamento al DEF in vista della manovra, anche se MDP ha votato sia uno no all'altro, come aveva già annunciato ieri. Poi questa botta e risposta al veleno tra il presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle, e Vespa, sul quale mi piacerebbe sapere il tuo parere. Poi Di Maio, che ha incontrato oggi il presidente della Repubblica Mattarella, al quale ha illustrato il programma politico del Movimento 5 Stelle, dice, da candidato premier, questo è stato mio compito, naturalmente, ovvio. E poi i fermenti appunto all'interno del centro-sinistra con il coordinatore Roberto Speranza, oggi a Radio 24 ha detto, ma insomma non faremo cadere la maggioranza, il governo, anche perché c'è sempre qualcuno pronto ad aiutare, i Verdiniani, Berlusconi, anzi Speranza dice che proprio c'è questo disegno, sempre c'è il Nazareno strisciante, no? Dice ci sarà certamente questa convergenza tra Berlusconi e Renzi poi alla fine. Pisapia che ha tirato un po' di stoccate ad Alema, no? Dicendo che lui è divisivo, faccia un passo di lato, e anche Pisapia, insomma, che cosa vuol fare da grande, fra l'altro, tu hai capito? Ma non lo so, io penso che molto dipenderà dalla legge elettorale, cioè è chiaro che se andiamo verso un sistema che favorisce le alleanze, e non a caso insomma il movimento di D'Alema e di Bersani è contro questo testo che attualmente è all'esame della Commissione Affari Costituzionali, perché favorisce appunto le alleanze, ma MDP, come sappiamo, non si vuole alleare con il Partito Democratico e quindi punta a rompere, come ha già fatto sul, come tu appunto raccontavi, come ha già fatto sul DEF. Pisapia sta un po' alla finestra in questo momento, trattonato da una parte e dall'altra. E immagino che la legge elettorale da questo punto di vista sarà risolutiva, perché è evidente che se si dovesse andare con l'attuale sistema, cioè con il consultellum, quello uscito dalle sentenze della Corte, ognuno va per conto proprio. Se invece andiamo verso un sistema che ha un minimo di maggioritario, qual è il Rosatellum, e allora è più facile che poi nei collegi uninominali si realizzino delle coalizioni, e di queste coalizioni potrebbe far parte Pisapia con il PD, perché ricordiamo che il collegio uninominale premia soprattutto le forze maggiori, i grandi partiti, e quindi chi è invece in difficoltà perché pensa di non, insomma abbastanza ragionevolmente, di non poter vincere nel collegio con un voto in più rispetto agli altri, non gli piace questo sistema. E quindi insomma lo scontro dentro il centro-sinistra o il centro e la sinistra, come preferiscono i Bersani andalemiani, tiene ancora banco. Anche perché, fra l'altro, una cosa interessante è che nei giorni scorsi MDP ha parlato anche di Pietro Grasso, l'attuale presidente del Senato, come possibile leader di questa sinistra alternativa. Oggi, per questo Bersani ha detto che non sarà il candidato premier, ma anche tutta questa, cioè anche tutto questo parlare di candidati premier fa molto sorridere, e mi sembra uno specchietto per le allodole agli elettori, nel senso che tutti sanno che in un sistema, che sia il Rosatellum, che sia l'attuale sistema consultellum, come l'abbiamo ribattezzato, qui si andrà a un governo di coalizione inevitabilmente. Quindi sono un po' parole, diciamo, e così e nei al governi vento. Di coalizione la storia parlamentare e la Costituzione, soprattutto, che detta le regole, la scelta del premier la fa il capo dello Stato sulla base delle convergenze che nel corso delle consultazioni al Quirinale ritiene ci possano essere per un premier rispetto a un altro. Quindi non è che che Renzi, piuttosto che Berlusconi, a prescindere dalla sua candidabilità o meno, o Di Maio o D'Alema, siccome si mettono come capo della loro formazione, sono i premier, saranno uno di questi sarà il premier, anzi secondo me potremmo scommettere che nessuno di questi sicuramente sarà il premier. Tu hai previsto Renzi. Gentiloni, e lì ancora le scommesse si accettano, eh? Tanto c'è tempo. Senti, invece Barbara, Di Maio, hai qualche indiscrezione sui punti principali del programma che oggi ha illustrato a Mattarella, per caso? Allora, anche questo colloquio di Di Maio va letto un po', insomma, come tutti i colloqui che avvengono al Quirinale chiesti dalle forze politiche, sono un modo per conquistare insomma una visibilità. Diciamo è la prima volta che Di Maio va al Quirinale da candidato premier, no? appena eletto dai 5 Stelle, appena nominato dai 5 Stelle, e quindi, come dire, è un modo anche per rafforzare la sua immagine di candidato premier, di capo e non solo, soprattutto di capo del movimento politico. Visto che le due cose coincidono, le due cariche, ed è una di quelle cose che ha fatto arrabbiare Fico, l'ala ortodossa. Senti, a proposito di Fico, questo battibecco con Vespa oggi, no? Vogliamo risentirlo, che cosa ha detto a proposito del programma di Bruno Vespa? Ho ascoltato molti colleghi anche parlare di Porta a Porta, come possibilità di ricondurre Porta a Porta sotto la testata giornalistica del TG1 per poi affrontare magari anche una futura par condicio con gli attori principali della politica italiana intervistati da Bruno Vespa. Io già le dico da adesso che la cosa che proporrò in commissione quando faremo la delibera è che chi ha avuto una deroga al tetto perché ha avuto il contratto artistico non possa essere ricondotto sotto testata. Allora, Vespa ha risposto, allora annulleremo tutte le, da che ho questo contratto artistico, annulleremo tutte le elezioni dal 2001. Ti leggo qualche messaggio degli ascoltatori. Simone, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dice: annullare delle elezioni perché le ha seguite Vespa come giornalista mi sembra ridicolo, anche perché la storia ormai è fatta, i 5 Stelle colpisce i giornalisti perché in realtà non ha molto da dire. Alberto dice: nel mondo stiamo vivendo un periodo di particolare confusione, amplificato in Italia, si varano dei provvedimenti amministrativi o legislativi a vari livelli, c'è sempre qualcuno che ricorre o salta fuori qualche richiesta particolare. Francesco: che abbia un contratto d'artista o magazziniere poco cambia perché svolge la funzione di giornalista da oltre 50 anni. Poi Stea dice: Carlo, mi rivolgo ai sapientoni, vogliamo parlare del programma della gabbia perché è stato chiuso, eccetera, eccetera. Insomma, vari commenti. Anna dice: in teoria se il contratto è da artista e non da giornalista è un problema che si potrebbe porre. Tu cosa pensi di questa vicenda? Ma io penso, come dire, il buon senso. Allora, è chiaro che il contratto di Vespa da artista è per pagare una retribuzione che altrimenti non avrebbe potuto ottenere. Per sfondare il tetto, diciamo. Per sfondare il tetto. Non mi piace mai quando si vuole mettere il bavaglio ai giornalisti, cioè ognuno deve fare il suo mestiere. Ora, che Vespa, come diceva, come ha scritto uno dei nostri ascoltatori, sia un giornalista, mi sembra evidente che Porta a Porta sia uno dei salotti dove si anima il confronto politico è altrettanto evidente. Quindi pensare di sottrarre Porta a Porta in un eventuale al confronto politico che si terrà in campagna elettorale, cioè non mi piace proprio da un punto di vista, come posso dire, di polemica, di... Io penso che più si parla, più le persone si possono confrontare e più gli spettatori e lettori hanno la possibilità di accedere al confronto, meglio è per tutti. Cioè hanno la possibilità di farsi un'idea propria, insomma. Sì. Va bene, grazie Barbara Fiammeri anche per grazie questa sera. Voi. Ciao Barbara, buona serata, viabilità. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo in pochissimi secondi. Abbiamo parlato appena arrivata la notizia, ci siamo collegati col Brasile perché è stato arrestato l'ex terrorista Cesare Battisti mentre cercava di fuggire in Bolivia. Sapete che in Italia è stato condannato a molti anni di carcere, vari ergastoli per diversi omicidi. E poi per la politica italiana abbiamo appena parlato di tanti aspetti, dal DEF che è passato e a Gentiloni vanno anche i voti dei verdiniani, poi lite tra Pisapia e D'Alema, Di Maio che illustra il programma dei 5 Stelle a Mattarella e questo botta e risposta tra Fico e Vespa. La situazione della Catalogna, gli indipendentisti annunciano che lunedì ci sarà la proclamazione dell'indipendenza, abbiamo seguito anche un po' il discorso del governatore della Catalogna Puigdemont che ha detto: il nostro sogno va avanti, continua. Sicurezza alimentare, ne parliamo tra pochissimo di questi spinaci e poi anche parleremo del Nobel per la chimica 2017. spinaci allucinogeni, quindi addirittura. Perché cosa è successo? Sabato 30 settembre un'intera famiglia, sabato scorso, è stata costretta a correre al pronto soccorso di Milano, fate bene fratelli, in preda a vari livelli di gravità, confusione mentale, stati di amnesia, eccetera. I medici li hanno visitati, dopodiché hanno capito che era colpa di un'intossicazione alimentare. Un'intera famiglia, madre, padre e due figli di 16 e 18 anni. Il problema è che mischiate insieme agli spinaci c'erano foglie di mandragora. Che cos'è la mandragora? Era la famosa erba usata anche dalle streghe, considerata un'erba magica ancora adesso per alcune pozioni. In realtà è un'erba molto tossica, ma sicuramente ci darà utili lumi Rolando Manfredini, che è responsabile per la sicurezza alimentare di Coldiretti. Buonasera Manfredini. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Ci parla di questa mandragora, esattamente che cos'è, come è finita in questo pacco di spinaci Bonduel, perché tanto è stato reso noto la marca, anche se Bonduel smentisce che sia stata accertata questa presenza. Sì, effettivamente è così, c'è stata una sorta di indicazione rispetto a questa intossicazione di ingerimento appunto di mandragora, che è una pianta estremamente tossica, ricordo però che è una pianta officinale e che in un qualche modo è una pianta un po' leggendaria, perché è legata effettivamente alla, è chiamata anche la pianta delle streghe, proprio per le caratteristiche allucinogene che aveva o addirittura medicamentose. È stata utilizzata moltissimo in epoca medievale per curare determinate malattie. Quindi è una pianta un po' particolare ed è spontanea. Ecco, questo è importante perché effettivamente se c'è stata contaminazione, essendo spontanea, può essere stata mischiata in maniera ovviamente non corretta, ma neanche involontaria, ovviamente, perché le foglie di questa pianta assomigliano molto alle foglie degli spinaci. Si può confondere benissimo. Manfredini, è chiaro che a questo punto la gente un po' si preoccupa, qualcuno già sta dicendo avevo dei spinaci nel congelatore, li ho buttati, vedo vari messaggi. Come ci si deve comportare e come è possibile che si possa contaminare? Perché cresce vicino, perché è simile, però è chiaro che se noi compriamo una busta di spinaci confezionata riteniamo di poter essere sicuri, no? Esatto, no, siamo assolutamente sicuri, bisogna sgombrare il campo da una situazione di questo genere. Se contaminazione c'è stata, che tra l'altro è stata anche smentita, quindi non si è ben sicuri della contaminazione, ecco, bisogna stare attenti però a chi in un qualche modo raccoglie queste piante, come per esempio la borragine, che in autunno appunto può essere utilizzata in questo caso in maniera assolutamente corretta, che è commestibile, eccetera. Siccome non si distingue bene dalla borragine, dalla mandragora, bisogna fare molta attenzione quando si raccolgono queste piante. Quindi probabilmente anche, per esempio, anche nel campo dei funghi, cioè bisogna stare attenti alle aree spontanee, perché effettivamente possono causare di questi problemi. La mandragora è una, no? La troppa bella donna è un'altra. Teniamo conto che in un qualche modo la natura che offre queste piante, che sono state utilizzate per preparare i farmaci straordinari, però se consumati inavvertitamente possono causare certamente Infatti. Dei problemi. Manfredini, ricordo nei giorni scorsi anche di una coppia di anziani che aveva raccolto dell'erba pensando che fosse dello zafferano, aveva fatto il risotto, purtroppo sono morti. Da questo, quando si fa diciamo personalmente, no, si può incappare in questi errori, ci si aspetta che quando nelle confezioni uno possa prenderle e consumarle con sicurezza. Comunque dico che il Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo a livello nazionale per il ritiro dai supermercati di un lotto di spinaci mille foglie surgelati Bonduel per sospetta presenza di foglie di mandragora. Ecco, questo è importante, vuol dire che i controlli chiaramente funzionano e che in un qualche modo però devono essere verificati. Chiaro. Se c'è un sospetto e che non è la pianta non è conforme agli standard, i controlli vuol dire che in Italia funzionano, per fortuna funziona. E quindi ovviamente si ha un grande cautela, la sicurezza alimentare è tenuta molto in considerazione nel nostro paese, anche tramite la struttura dei controlli, che è importante. Ecco, speriamo che non sia effettivamente così e che comunque non succeda più. Rolando Manfredini, sì. Io intanto la saluto e la ringrazio molto. Buonasera. Grazie, buon lavoro. The 2017 Nobel Prize in Chemistry jointly to Jacques Dubochet, Joachim Frank and Richard Henderson. And the Academy citation runs, questi tre nomi che avete sentito sono i nomi dei padri del microscopio Cryo-EM. Questo è l'annuncio del Nobel per la chimica 2017 che ha premiato questa rivoluzione nella biochimica di questo super microscopio, permettendo di esplorare in 3D la struttura complessa delle molecole biologiche. Io ve l'ho detto a tentoni, ma mi affido al professor Martino Bolognesi, che è docente di biochimica alla Statale di Milano, nonché direttore del laboratorio di criomicroscopia elettronica, Cryo-EM Lab, dove si trova l'unico esemplare italiano di criomicroscopio elettronico. Professore, ci dice in sintesi l'importanza di questo premio, di questa scoperta? Sì, certo. Buonasera, buonasera. Professore. Guardi, la scoperta, o meglio la scoperta, allora il Nobel premia un qualche cosa che ci si aspettava, diciamo, se non quest'anno o nei prossimi uno o due anni, perché a partire grosso modo dal 2014 l'insieme delle tecnologie delle microscopie elettroniche si sono evolute al punto tale che è diventato possibile analizzare appunto le molecole, o meglio le macromolecole, quindi molecole molto grandi costituite da migliaia e migliaia di atomi, come le proteine, il DNA, le RNA, analizzarle con le tecniche della microscopia elettronica. Non è che in precedenza non fosse possibile fare questo, però le tecnologie che erano disponibili fino al 2013-2014 circa non consentivano di arrivare alla risoluzione atomica, cioè, o quasi atomica, cioè non consentivano di andare nel dettaglio tale da vedere quasi gli atomi, vedere sicuramente gli aminoacidi che costituiscono le proteine, i nucleotidi che costituiscono gli acidi nucleici e così via. Perché la tecnologia non si era evoluta e soprattutto non esistevano ancora dei detector così sensibili come quelli che usiamo oggi, appunto per questi strumenti che nascono dalla sinergia, diciamo, delle idee, direi principalmente di Henderson, ma poi insomma anche dai metodi che ha messo a punto Dubochet e dalle applicazioni di Frank. Insomma, il problema, se posso andare un pochino nel dettaglio, è questo. Non è che i microscopi elettronici, che so io, di 20 anni fa non potessero arrivare a queste risoluzioni, a vedere gli atomi, li vedevano sicuramente già da molti anni in composti, per esempio, metallici, cioè composti molto robusti. Le molecole biologiche sono molecole molto delicate che non erano in grado di sopportare le dosi di radiazioni e le dosi di elettroni che erano necessarie per ottenere le loro immagini con gli strumenti di vecchia generazione. Con questi strumenti di nuova generazione è possibile usare delle dosi di elettroni bassissime, si lavora a temperature criogeniche, cioè quindi a temperature dell'azoto liquido, e questo appunto è il contributo di Dubochet, che ha messo a punto le tecnologie per congelare le molecole e osservarle all'interno del microscopio. E si lavora con delle dosi così basse di elettroni che non danneggiano la macromolecola. Quindi professore, una domanda proprio in chiusura, stiamo chiudendo: quanto costa questo super microscopio? Costa 3 diciamo, il nostro costa 3 milioni, esiste un modello anche più grande che costa 5-6 milioni, dipende un po' poi come viene attrezzato. Bisogna poterselo permettere, giustamente, per fare queste ricerche. Deve averlo. Grazie, professor Martino Bolognesi. Grazie molte, buon lavoro, complimenti, e noi ci risentiamo alle 22.